Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera e benvenuti a Rock Wave Live, Io mi racconto, con Gilles Facchinelli e Radio Cooperativa. Primo ospite musicale di questa sera. Ospite, ma devo parlare anche un po' al singolare, ma al plurale, perché si tratterebbe in verità di un gruppo pisano. Sono tre musicisti, tutti attualmente maschi, perché dirò poi perché attualmente maschi, e sono Simone Bettin, voce e chitarra, Davide Barbafiera all'elettronica e Tommaso Tanzini al basso. E con noi in diretta telefonica abbiamo Simone Bettin. Ciao Simone! Ciao, ciao a tutti. Simone, ti ringrazio. E dove ti trovi allora esattamente? Sei qui in zona Padova? No, attualmente sono a Pisa, a casa mia, sono nel giardino, nel giardinetto di casa mia. Fumo una sigaretta. Fa caldo, fa caldo dalle parti vostre. Sì, ho il giacchetto. però oggi è stata una bellissima giornata di sole, si stava molto bene. Era un po' rinfrescato, però piacevole. Bene. Col giacchetto si sta bene. Benissimo. Io direi di iniziare a conoscere la vostra band, no? La band si chiama Campos. Questo è il suo nome, appunto, perché ho visto un attimino, l'avete presa un po' da un portiere del calcio questo nome di gruppo. Sì, esatto, spesso ci viene fatta questa domanda. Sì, è il portiere del Messico negli anni 90, Jorge Campos, che insomma è un personaggio un po' eclettico, un po' particolare. Si disegnava le proprie, insomma, la divisa con la quale poi giocava, quindi aveva questa velleità da pittore, anche faceva delle cose insomma, per conto suo, artistiche, e ci piaceva un po' come personaggio, un po' per il calcio, perché accomuna un po' tutti, e poi perché spiccava come personalità all'interno di quel mondo lì. Poi avete preso anche dei disegni delle sue maglie in copertina, no? Esatto, per il primo disco abbiamo usato una delle sue divise come copertina, sì. Io andrei un po' per gradi, no, Simone, per scoprire un po' il vostro gruppo e far conoscere voi ai nostri ascoltatori che seguono questo programma dedicato prevalentemente alla musica emergente. Io partirei dal 2012, perché tu hai un filo che ti lega a un gruppo del passato e anche a un cantante ormai affermato e presente anche oggi al Festival di Sanremo con il brano Dov'è l'Italia. Sto parlando dei Criminal Jokers e di Motta. Raccontaci tu. Allora sì, io è vero, sì, io ho cominciato a suonare con Francesco e anche con Tommaso, in realtà, che è l'attuale bassista di Campos, da ragazzi, insomma, quando facevamo liceo. E da lì partì l'esperienza con i Criminal Jokers, che poi si è conclusa appunto nel 2011, periodo nel quale io mi sono trasferito poi a Berlino, in Germania, e avevo cominciato già a scrivere qualcosa con Davide Barbafiera e dei Campos. Quindi sì, così, questo è stato il mio passato con Francesco. Che tra l'altro voi, se non sbaglio, aprite ancora i concerti di Motta, no? Allora, per questo tour in realtà no, abbiamo fatto per il tour scorso il tour di Viva, che è il nostro primo album, e abbiamo aperto sia sì, Francesco in varie occasioni, fra cui l'Alcatraz a Milano, che è stata insomma una data bellissima perché era sold out, quindi non è così facile trovare quel tipo di contesto, insomma. E poi abbiamo aperto al MOC a Roma, insomma ci sono state un po' di date che abbiamo fatto insieme, quindi è stato, insomma, a parte piacevole perché poi c'è l'amicizia di mezzo, ma anche molto stimolante perché c'era un bel pubblico, quindi sì. Io ho ascoltato un po' anche i Criminal Jokers, trovo però non è che ti sei portato tantissimo di questa esperienza all'interno di questo gruppo, o mi sbaglio, Simone? Diciamo che il mio background un po', cioè, con i Criminal Jokers è stato quello della musica diciamo punk, insomma, sì, il power trio c'era, chitarra, batteria e basso, molto minimale, molto, tutto molto tirato, diretto, quindi lo spirito c'è sempre, secondo me, anche nei Campos, anche perché non sono poi il solo che proviene da quel tipo di passato lì, anche Davide ha avuto gruppi di quel genere, insomma, Tommaso uguale, quindi fa parte dell'esperienza un po' di tutti e tre. E seppur quindi magari non si senta nelle cose che facciamo attualmente, però c'è come passato. Certo. Poi nel 2011 a un certo punto tu inizi un po' a distanziarti professionalmente dai Criminal Jokers e inizi a creare, diciamo così, a far muovere i primi passi a questo gruppo e ti avvicini a Davide Barbafiera. Com'è stato questo aggancio? Come vi siete uniti? Vi siete conosciuti a livello professionale o eravate già in amicizia? Con Davide ci conoscevamo perché essendo tutti e due di Pisa, e non so, per chi non conoscesse Pisa è veramente piccola, quindi è difficile non conoscere coetanei, insomma, e quindi ci conoscevamo di vista, poi sapevo lui che lui lavorava con l'elettronica e mi interessava un po' quel mondo lì, per cui abbiamo cominciato a fare cose insieme con l'intento appunto di unire un po' la mia esperienza con insomma, diciamo, di musica acustica, insomma, e la sua invece di musica elettronica. Certo. E, sì, questo è successo nel 2011, dove abbiamo cominciato a lavorare insieme, poi io quell'anno lì mi sono trasferito in Germania, a Berlino, e quindi è diventato poi un progetto a distanza, e per, questo è anche il motivo per cui abbiamo diciamo, fatto uscire il nostro primo disco nel 2017, perché ci è voluto un po' di tempo, insomma, certo, per mettere insieme le idee, e non è stato così, così semplice, immediato, no? Certo, volevo dire che tra poco ascolteremo anche un po' tanta musica anche dei Campos, era un po' per introdurre un po' la storia, per poi arrivare appunto alla produzione del primo album, e lì cominceremo un po' la carrellata musicale. Quindi poi questo, voi avevate bisogno anche di fare dei live nel frattempo, perché appunto, come dicevi tu, non eravate ancora pronti a fare un album, no? E si è aggiunta una bassista australiana con voi. Sì, esatto, a Berlino fra i musicisti che poi ho frequentato conosci Barry Ridge, che è diventata poi la bassista dei Campos, perché inizialmente eravamo appunto, come ho detto prima, io e Davide, e serviva, io avevo cominciato a scrivere pezzi con la chitarra, nonostante io sia un bassista in realtà, però ero cimentato in questo, insomma, questo nuovo strumento per me, e abbiamo cominciato a guardarci intorno, ho cominciato a guardarmi intorno e a cercare un bassista o una bassista, e Barry è entrato a far parte del gruppo, quindi come trio poi così formato abbiamo cominciato a suonare a giro nei locali di Berlino. Che tra l'altro volevo chiederti, a Berlino c'è più possibilità di suonare rispetto all'Italia o le problematiche sono le stesse? Praticamente Berlino puoi suonare un po' ovunque, non ci sono particolari restrizioni, infatti questo è uno dei motivi per i quali non è così semplice poi trovare gruppi interessanti, perché essendoci un po' di tutto si allarga un po', no? L'orizzonte, quindi è un po' più difficile, però ovviamente c'è tantissima libertà da quel punto di vista lì, e non è così semplice viverci perché la maggior parte delle volte vieni pagato col cappello o con insomma qualsiasi cosa non riesca a contenere denaro, spiccioli. Veniamo un po' adesso, visto che hai parlato un po' del vostro primo album, andiamo nel 2016 e ho scoperto che inizialmente il nome del gruppo non era Campos, ma Viva, che tra l'altro è diventato il titolo del vostro primo album, no, signora? Sì, esatto. Sì, il primo, appunto, il primo nome è stato Viva, poi abbiamo avuto un altro nome che era Zambra, e poi definitivamente è diventato Campos. Questo perché, vabbè, Viva, perché in realtà ci sono sempre piaciute le parole corte e semplici, no? Non volevamo parole composte. Poi Viva ci siamo resi conto che è tipo una delle parole più cliccate su internet. D'Ambra, poi c'era un altro gruppo della zona della Toscana che si era ha aperto il profilo da poco con questo nome, e poi abbiamo deciso Campos per il discorso che ho spiegato prima. E comunque Campos, se viene citato Campos su internet, anche lì sia che praticamente tutto il mondo spagnolo, insomma sudamericano, spagnolo, è come Mario Rossi, no? Quindi Campos è un cognome comunissimo. E niente, per questo ci siamo tirati un po' la zappa sui piedi, però non mi piace, va bene così. Ecco, questo è un disco d'esordio per... tre tentativi andati... No, scherzo. Beh, a voto no, perché alla fin fine siete arrivati a una conclusione. Sì, poi viva. Esatto, poi viva, come dicevi te, insomma, un po' per nostalgia anche abbiamo deciso di chiamare il nostro primo album Viva. Certo. Anche perché dopo tutti quegli anni, insomma, tutto quel tempo, era un po' un grido di, no, come se fosse un esultare, insomma, dirlo proprio, viva, è uscito il disco. Queste sono, dentro questo album ci sono 12 tracce, perché è importante, perché si differenzia un po' poi dal vostro ultimo album. 12 tracce, in pratica tutte in inglese, tra folk, country, elettronica e anche un po' di blues, o mi sbaglio, Simone? Sì, sì, c'è molto blues, c'è molto... Sì, è giusto come hai detto te, sì, siamo partiti un po' da quella base lì. Poi ovviamente con l'elettronica cambia un po' tutto, però la base era quella, sì. Ti chiedo una cosa prima di mandare in onda il primo brano, che poi ti chiederò anche questa, il suo contrario nell'ultimo album. Perché tutte in inglese come primo album? Perché appunto in quel periodo lì vivevo all'estero, c'era Derry che è australiana e mi ha dato un po' la forza anche di continuare a scrivere in inglese, cioè comunque averci una persona madrelingua a fianco, che se dice guarda, vanno bene, insomma, funziona, e ti dà un po', no, anche la forza. Poi anche vivendo all'estero ci sembrava più normale farlo in inglese, e cambia un po' la prospettiva quando sei fuori, insomma, e quindi questo è il motivo. Io vorrei che tu mi parlassi un po' velocemente della prima canzone, perché io sono andato a pescarmi anche una canzone che a me piace tantissimo, è molto bello il suo video abbinato, che vi consiglio di andare a vedere in YouTube, basta cliccare Campos e là vi vengono fuori i video appunto del se non il portiere del Messico, però attenzione. Certo. Questa canzone è bellissima, e cosa mi dici di questa canzone? Allora, questa canzone si interroga un po', parla un po' di se stessi, è una domanda, no? Inizia con una domanda e quindi si interroga su se stessi e su quello che ci sta intorno. Poi il discorso potrebbe diventare molto più lungo, però mi fermo a questa breve descrizione qui. Benissimo. Poi lascio agli ascoltatori. Benissimo, intanto ascoltiamoci questa meravigliosa canzone, I Campos. Cannot see the flames. What I've done, where I'm going. brain. Blow it away, blow it away. And the room's like a picture with no frame. Blow it away, blow it away. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Allora, rieccoci in diretta, Simone. Beh, qui abbiamo sentito degli arpeggi di chitarra morbidi, giri di basso, e poi questa voce intensa, io l'ho definita bella, convincente, profonda, e mi confermi che è la tua, Simone? Sì, è la mia, ma usiamo effetti, insomma, no, scherzo. No, la mia, sì. Complimenti, Simone, perché ci sta tutta dentro queste sonorità che voi state usando. Grazie mille, grazie, davvero. Quasi 2 anni dalla sua pubblicazione di Viva, cos'è stato per voi questo album? Beh, è stato innanzitutto vedere che si potevano fare delle cose, perché ovviamente penso come tutti, cioè Cupino, insomma, chi lavora negli ambiti artistici ha i propri dubbi e le proprie incertezze. E per noi, come ho detto prima, ci è voluto un po' di tempo, dovuto alla distanza, poi ci è voluto un po' di tempo perché ci vuole anche un po' di convinzione, no? Per far uscire le cose, perché era la prima cosa nostra che facevamo uscire, e quindi non eravamo totalmente convinti di quello che avevamo fatto e abbiamo un po' tergiversato. Quindi è stato questo, insomma, il vedere che si possono fare delle cose e posteriori poi rendersi conto che non sono magari neanche tanto male, insomma, poi si possono, no? Io come ho detto poco fa, credo che ognuno che si occupi di arte ha sempre i propri dubbi, le proprie domande su quello che ha fatto. Io ho trovato questa canzone quella che si lega maggiormente all'album successivo. Sei d'accordo o no su questa cosa, Simone? Sì, abbastanza, perché abbiamo nell'album, insomma, Umani, Venti e Piante, che è il nostro secondo e ultimo disco, abbiamo ovviamente preso tanto anche da Viva, cioè dall'esperienza passata, perché c'erano tante cose che diverse cose che sono cambiate, fra cui la lingua, anche che è l'italiano adesso. Però ci piaceva il percorso da dove siamo partiti e quindi abbiamo cercato di portarlo avanti, per cui per forza di cose, insomma, si sentono dei rimandi a delle cose precedenti. Certo, anche perché passare da un album, cioè da canzoni prettamente in inglese a passare in italiano non penso sia cosa così semplice, no? No, per niente, soprattutto se non ci si è mai cimentati con questa cosa. Oddio, delle cose magari le avevamo scritte, le avevamo abbozzate anche in italiano, però insomma è stato un passaggio abbastanza complesso, sì, insomma, un terreno inesplorato. Ecco, io volevo proporre, far ascoltare subito un altro brano da questo vostro album, che appunto si chiama Umani, Vento e Piante, che si chiama Qualcosa Cambierà, che è il vostro singolo, giusto? Sì. Ecco, il mio parere è che non si sente, cioè non avete perso questa efficacia, questa timbrica vocale, questa efficacia musicale. Siete rimasti su una linea perfetta, secondo me, non è stato perso nulla. Questo ci fa molto piacere perché insomma vuol dire che l'intento che ci eravamo preposti ha, insomma, ha funzionato almeno sì. Insomma, nel tuo caso. Insomma, sì, io non sono un critico musicale, faccio ascoltare musica. Ma spesso i critici musicali fanno più danni che altri, forse. Sì. Penso quello che... Questo per è il mio modo. Per cui son contento che tu non sia un critico musicale. Ecco, benissimo. Allora vi propongo Qualcosa cambierà dei Campos. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Eccoci qua, Simone. Allora, il 9 novembre 2018 esce appunto il vostro secondo album, Uomini, Vento e Piante. Per l'etichetta Woodworm, che se non mi sbaglio cura molto, un'etichetta che cura molto la musica indipendente. Sì, Woodworm è nata nel 2011 e da lì si è preposta un po' di coltivare appunto la musica indipendente italiana. Devo dire la verità, nei nostri confronti si sono comportati molto bene, cioè ci hanno dato fiducia da subito e già ci conoscevano con Viva, perché Motta e anche Woodworm, avendo aperto le date, insomma, così avevano già avuto modo di conoscerci e quindi hanno, insomma, riposto fiducia nei nostri confronti e ci hanno dato la possibilità di fare il nostro secondo disco, sì. Che tra l'altro, diciamolo anche, perché magari qualcuno sente parlare di etichetta indipendente, che significa? È un'etichetta che rispetto alle major vi lascia tanto, tanto spazio, no? Di autonomia, di gestire proprio, di creare e gestire in toto un album. Dico bene, Simone? Sì, esatto, è proprio così. Che appunto lasciano la libertà all'artista di esprimersi in modo in cui meglio crede, perché ritengono che questo sia proprio la forza della produzione musicale. Intanto parlavamo prima che c'è questo cambiamento radicale, no? Rispetto a Viva, non tanto nelle sonorità, perché abbiamo detto che un legame rimane, però non cantate più in inglese ma in italiano, come si diceva prima, una scelta non facile. Ma alla fine cosa vi ha portato di fare questo proprio capovolgimento nei testi? Ma diciamo che è stato un passaggio abbastanza spontaneo, perché come dicevo prima delle cose in italiano erano già state scritte, seppur non pubblicate, e poi è dovuto anche al trasferimento, diciamo, mio in Italia, e quindi ad averci intorno un ambiente totalmente diverso, e questo sicuramente ha influenzato anche l'aspetto della scrittura, insomma, e la lingua da utilizzare. E quindi oltre ai testi, quindi magari più andiamo più sul tecnico, dal punto di vista musicale, io ho detto un po' il mio parere. Secondo il tuo punto di vista, invece, vostro punto di vista, c'è un cambiamento dal punto di vista musicale rispetto a Viva? Ma rispetto a Viva diciamo che ci sono, sì, c'è stato un cambiamento negli arrangiamenti, sono più costruiti, più leggermente più elaborati. Viva era più un disco, sì, di canzoni, certo, però forse aveva un altro tipo di concetto dietro, ovvero il flusso continuo delle cose, insomma, che si muovono. Diventa un discorso un po' lungo, un po' hippie forse, però certo. Però il nostro trip mentale che siamo fatti con Viva, con questo disco qui forse si è persa un po' leggermente quell'aspetto lì, ci siamo magari concentrati più sulla struttura canzone, seppur cercando di stravolgerla attraverso l'arrangiamento dell'elettronica, quindi le percussioni che cozzano spesso con gli strumenti. Questo è un aspetto che c'è sia in Viva sia in Umani, Vento e Piante, però dal punto di vista musicale che ci siano stati grandissimi cambiamenti, non lo so, io spero, almeno credo, di essere andato un po' più avanti, nel senso di aver esplorato cose che con Viva non avevamo esplorato magari, però sai, questa è la mia convinzione, non so poi come la percezione che ho all'ascoltatore è ovviamente diversa. Allora, la prossima canzone è Passaggio. Volevo che mi parlassi un attimo di questa canzone, Simone. Ok, infatti il titolo Passaggio, che è la prima traccia del disco, sta un po' a significare il passaggio dal disco precedente a questo disco qui, quindi per quello abbiamo scelto di metterla come prima canzone. E poi la canzone parla di un abbandono, di una perdita, e abbiamo utilizzato un po' un'atmosfera specialmente all'inizio molto, molto eterea, e magari che cozzasse un po' con quello che è il testo. Però anche qui lascio un po' all'ascoltatore la libera interpretazione. Certo, diciamo anche che lasci l'ascoltatore, perché mi hanno dato proprio anche facoltà di scelta, mi hanno detto decidi tu quale canzone far ascoltare, ti diamo massima libertà. Quello sì, perché penso che sia importante, insomma, che di lasciare, come dici te, non sei un critico, sei un appassionato di musica, certo. E è giusto che scelga tu. Certo. Allora ascoltiamoci i Campos con Passaggio. Comincia qui, sembra mai, rimani un po' a scivolare senza farti vedere. Mentre tu ti allontani un po', siamo qui ad aspettare. Fuori un giorno ognuno è fatto suoi. Sembra tutto normale. Guarda intorno quanto spazio c'è. Sarai pronto a partire. Thank you. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Ecco, noi ci stiamo avviando verso la chiusura, anche perché ti avevo promesso, Simone, che alle 21.20 ti avrei lasciato libero, perché domani ne parleremo, per domani avete un viaggio e sarete qui nelle nostre zone, ma tra poco ne parliamo. E volevo chiederti quali sono le vostre prossime tappe artistiche. Ci aspetta un nuovo disco o vi dedicherete ancora un ampio spazio ai live come avete fatto anche in questo periodo? Allora, ovviamente sì, c'è la volontà, la voglia di buttare su nuove idee, e lo stiamo già facendo. Ora, quando non si può sapere, insomma, vediamo un po' come sono anche gli impegni, appunto, del gruppo per quanto riguarda i live, perché prendono abbastanza tempo, sia di preparazione che poi ovviamente di logistica. Faremo cose nuove, ecco, però quando non lo so. Ancora non lo sapete. Voi allora vi siete dedicati, ne avete fatti tantissimi concerti dal 2017 ad oggi, quanti ne avete fatti? Per ora siamo sulla settantina, perché poi l'anno scorso ci siamo fermati d'estate, abbiamo deciso di non, un po' per concentrarsi sul disco nuovo, insomma, che come dicevo prima ci vuole tempo per fare questo genere di cose, e poi anche per non stare a ripetere le cose che avevamo portato, perché noi il 2017, allora, il disco è uscito a marzo, da marzo fino a novembre abbiamo fatto quasi una sessantina di, no, una, sì, 55 date, una cosa del genere. Poi dopo novembre ci siamo fermati un attimo, abbiamo ripreso un pochino a maggio, dopo novembre ci siamo fermati, abbiamo cominciato a scrivere il disco nuovo, a gennaio l'abbiamo registrato, gennaio 2018, poi abbiamo fatto un mini tour all'estero, e poi l'estate scorsa abbiamo scelto di non risuonare il disco vecchio, visto che avevamo per le mani il disco nuovo, abbiamo fatto altre cose. E poi, è sempre una gran bella esperienza, no, Simone? Certo, sì, certo. Finché si suona è bellissimo, poi quando non si suona bisogna un attimo, insomma, mettere subito altra carne al fuoco, mettersi a fare altre cose, cioè ognuno l'estate scorsa ha fatto un po' anche per vivere, perché insomma tengo a precisare che è bello suonare in giro, è bello fare dischi, ma non è così semplice viverci, per cui ognuno poi quando non suona deve un attimo adattarsi ad altre circostanze, insomma, deve lavorare, deve pagare l'affitto, c'è tutto un retroscena molto, certo, molto materiale, che però fa parte della vita, insomma. L'ultima canzone si chiama S punto o solo S? Ma si chiama S, vabbè, è un nome, quindi S punto, sì. Tre volte che l'annuncio, S punto, è proprio brutto da dire. Diciamo per quello ti chiedo. No, è proprio brutto, diciamo S. Ecco, sì. che canzone è, Simone? S è una canzone molto, insomma, come tutte le canzoni, però molto sentita, parla di una dipendenza dalle quali spesso non è così semplice uscire, e niente, non mi sento di dire altro. Purtroppo io preferisco sempre un po', so che è un discorso, fare ascoltare, sì, perché voglio anche che chi li ascolta, insomma, si faccia una propria idea e una propria interpretazione di quello che sta ascoltando, insomma. Io vado a chiudere con questa canzone bellissima, perché questo sono un duo, suonate in due la chitarra acustica in questa canzone? E dal vivo no, siamo in tre, quindi no, il basso c'è. Quindi c'è solo una chitarra, sì. Simone, magari in futuro sarebbe bello avere altre persone, però adesso ci chiamiamo in una panda a metano e siamo io, Davide, Tommy e la ropa di scorta e gli strumenti, quindi... Simone Bettin, grazie della tua partecipazione. Davide Barbafiera, Tommaso Tanzini, sono i Campos. Ciao Simone, grazie. Ciao, grazie ancora, grazie mille. Solo una, poi ti stendi un po' e non ci pensi più. Solo una, stai attento poi non le conti più. Sei distratto tu e non ridere. In questo gioco si può sbagliare e lo sai, te ne approfitti un po'. Cosa non trovi tu e cosa cerchi che non riesci a guardarti neanche più? Cosa non trovi tu? Cosa non trovi tu? E cosa cerchi che non riesci a guardarti neanche più? Cosa non trovi tu? Stendi un po' e non ci pensi più. Solo una si moltiplica e non le conti più. Sei distrutto tu e non ridere. In questo gioco si può sbagliare e lo sai, te ne approfitti un po'. Cosa non trovi tu? Cosa cerchi che non riesci a guardarti neanche più? Cosa non trovi tu? Cosa non trovi tu? E cosa cerchi che non riesci a guardarti neanche più? Cosa non trovi tu? Cosa non trovi tu? E cosa cerchi e non riesci a guardarti neanche più? Cosa non trovi tu? Cosa non trovi tu? Che non riesci a guardarti neanche più?